America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Beh, voglio cominciare a darvi un'anticipazione in vista del viaggio del Presidente del Consiglio Matteo Renzi a Washington. Ci sono stati dei problemi, questo l'ho confermato con delle interviste, delle chiacchierate che ho fatto a Washington e comunque negli ambienti diplomatici internazionali. Ci sono state in passato delle tensioni fra Italia e Stati Uniti sulla linea da tenere per le sanzioni contro la Russia, e questo poteva essere, come dire, un elemento di ombra sulla visita del nostro Presidente del Consiglio a Washington. Ebbene, posso dirvi oggi che dopo una serie di chiacchierate, dopo un'intervista che vi proporrò più avanti, le tensioni sono rientrate in modo, direi, completo. Ho saputo che c'è stato un incontro con il sottosegretario di Stato Victoria Nuland, che ha chiarito ogni malinteso dopo la visita di Renzi a Mosca, ma soprattutto ho avuto una chiacchierata con l'ambasciatore Daniel Freed, che è un veterano del Dipartimento di Stato, un grande esperto di Europa dell'Est, ha lavorato alla Casa Bianca, si è occupato di dossier molto delicati e da qualche tempo è il responsabile per la politica sulle sanzioni nei confronti della Russia, dunque la controparte americana quando l'Europa si siede al tavolo per negoziare le sanzioni. Vi ripropongo la chiacchierata che ho fatto qualche giorno fa. Buongiorno ambasciatore Free, grazie per essere con noi. Innanzitutto una domanda: ci sono state preoccupazioni a Washington quando Matteo Renzi si è recato a Mosca? No, non ce n'erano. Ovviamente non ci piace quello che Putin ha fatto. Ha invaso un altro paese, un vicino in Europa, ha annesso dei territori, continua ad inviare armi pesanti in Ucraina, attraversando il confine. I russi poi mantengono la presenza del loro personale militare all'interno dell'Ucraina. Lo stanno facendo anche adesso, dopo gli accordi di Minsk. Ed è importante quindi mantenere alta la pressione. So che c'erano preoccupazioni per gli sforzi russi di contattare paesi europei che sembravano non essere del tutto convinti delle sanzioni. In realtà però l'Unione Europea e tutti i suoi membri hanno agito in solidarietà e lo abbiamo apprezzato. E penso che Mosca avrebbe desiderato che l'Italia potesse rompere con questo consenso. Ma quella non è stata la realtà e non abbiamo mai pensato che ci potesse essere una rottura del consenso, perché siamo stati in continuo contatto con l'Italia, che resta uno dei nostri partner principali e che ci ha aiutato a formalizzare questo consenso europeo, che rappresenta un forte segnale della nostra capacità e determinazione a respingere l'aggressione russa. È una buona cosa e lo voglio riconoscere con entusiasmo. Ambasciatore, si dice che gli USA stiano beneficiando molto più dell'Europa dal fatto che ci siano queste sanzioni. Cioè, mentre l'Europa è penalizzata e l'interscambio, le esportazioni verso la Russia diminuiscono, ci sono alcuni che dicono che invece quelle dell'America verso la Russia sono aumentate. Ecco, come reagisce a questa affermazione che gira un po' negli ambienti internazionali? L'ho sentito anche io, ma è falso. Ho visto i dati e la stessa Commissione europea ha analizzato l'impatto delle sanzioni e ha giudicato che fosse equamente distribuito tra Europa e Stati Uniti. Il vero problema è che la Russia non ha riformato la sua economia nel modo che avremmo sperato. E se la Russia dovesse chiudere con il percorso di aggressivo revisionismo all'estero e di statalismo e autoritarismo a casa, questa Russia davvero riformista sarebbe una Russia di gran lunga più prospera e di grandissima importanza per gli affari americani ed europei. Ecco, veniamo agli accordi di Minsk. Siamo davvero sicuri che l'Ucraina stia rispettando la sua parte degli accordi? Molti ritengono che Poroshenko proceda con lentezza, mentre invece si dice che la colpa della mancata realizzazione rapida di Minsk è soltanto dei ribelli della Russia. Ecco, come risponde a questo? Rispondo che non è vero. Gli ucraini hanno fatto quello che dovevano fare. Ieri Poroshenko ha dato il via libera a un referendum nelle zone orientali. Appena qualche settimana fa il Parlamento ucraino ha approvato le autonomie locali ed elezioni libere nelle zone separatiste. Lo hanno fatto con coraggio, per essere conformi alle difficili richieste politiche imposte dagli accordi di Minsk. Questa è una buona notizia. Significa che il governo ha la maggioranza per approvare le leggi e poi per applicarle. In realtà ora tocca ai separatisti fare il prossimo passo e consentire al processo di Minsk di andare avanti. Attenzione però alla macchina della propaganda. Non so chi fa questo tipo di accuse, ma se la gente si informa attraverso il canale russo in lingua inglese RT, questo è il cattivo risultato che otterranno. La RT è una stazione di propaganda e i fatti dimostrano il contrario. Ecco, c'è un altro punto su cui vorrei chiedere il suo parere. Molti dicono che l'azione della Russia in Ucraina sia stata scatenata, sì, da una mentalità da guerra fredda, però anche dal fatto che l'Europa, la NATO, l'America hanno dato la sensazione alla Russia, che vuole avere un ruolo globale, che ha armi atomiche, hanno dato la sensazione di essere circondata. Ecco, questa, alcuni dicono, è una preoccupazione legittima. Well, I've never understood the argument about encircling Russia. Io non ho mai capito il discorso sull'accerchiamento della Russia. So che molte persone lo condividono, ma io non vedo cosa possa significare. Quando un paese vuole riformare se stesso e diventare prospero, democratico e pacifico, perché questo dovrebbe urtare gli interessi della Russia? La domanda da porsi, piuttosto, è cosa ci vuole per soddisfare la Russia? Mi sembra che la risposta sia semplicemente questa. La Russia esige di poter avere una sfera di dominio sui suoi vicini. Bene, siamo davvero disposti a dire a 45 milioni di ucraini che non hanno alcuna voce sul loro proprio destino? Che il loro futuro appartiene a Mosca? Che noi come europei o americani siamo indifferenti a quello che vogliono? E per il bene di che cosa? Per placare i disegni russi che credono nella sottomissione dei loro vicini? Possibile che l'Italia o chiunque abbia una coscienza decente voglia costruire un futuro europeo del XXI secolo sulla base ancora di sfere di influenza basate sulla paura e sull'intimidazione? Vorrei credere che la storia del XX secolo ci abbia insegnato qualcosa di diverso. Abbiamo chiuso la guerra fredda con alcuni principi. Uno di questi è: i paesi devono essere liberi di trovare la loro propria strada. Vogliamo abbandonare ora quei principi per le richieste in arrivo da una nazione aggressiva? Io non la penso così e fortunatamente non è quello che ha scelto l'Unione Europea. L'Unione Europea e tutti i 28 membri hanno scelto un'altra strada, hanno scelto giustamente, coerentemente con i loro valori e con quelli comuni che condividiamo, una cosa che apprezzo molto. Non vorrei vivere in un'Europa progettata da persone che cinicamente dispongono della vita di 45 milioni di ucraini e forse di altre decine di milioni sulla base di sfere di influenza imposte dalla paura. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Mark Ronson, Bruno Mars avevano distribuito la loro canzone Uptown Funk qualche settimana fa, oggi è in testa alle classifiche. E dunque, Uptown Funk, Mark Ronson e Bruno Mars. Don't believe me, just watch. New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.